infatti dice a figlio mio, vieni anche per cucinare, vieni che mamma ti fa vedere come si fa, che ti può sempre essere utile. Sì, e beh certo, in effetti è una cosa utile, è bello saperlo fare. Ma siccome io non mi sono mai interessato di queste faccende così domestiche, eccetera, per cui non è che sapevo più di tanto, però il giorno era successo che mia moglie si sentiva leggermente male e allora ha detto, ah, rimanete a letto, ya ci penso io. Caspita, gli ho fatto, siamo a putti. Ma tu dovrebbe vedere, questa schiuma da lavandino saliva, ma saliva in altezza almeno 20 centimetri già, è una cosa, guarda, è più acqua buttavo, è più usciva fuori, questa, boh. Siccome in quella casa c'era la vasca biologica, no? Perché essendo una delle case, la prima casa che sono venuto ad abitare più alle punti, c'era tutto, avevamo l'acqua, avevamo tutto, a differenza di altre famiglie lì, che no, allora non c'erano gli impianti di Abanoa qua, c'erano le fontanelle per le strade, tutti tu vedevi i fili, i tubi lunghi parecchi metri, ma parecchi veramente, dalla fontanella all'abitazione delle famiglie, no? Ma tu vedevi tanti di quei tubi per terra. Dunque, cosa ne sapevo io che succedeva così? Noi avevamo la vasca biologica, io ho pensato, sta a vedere che dalla vasca biologica che è sotto, no, nella palazzina dove abitavo io, c'era la vasca biologica che lì rimaneva tutto lì dentro, poi sistematicamente, ma una volta ogni 5-6 anni mare si poteva chiamare, come si chiama, con la macchina che aspira tutto quanto, no? Che poi non ce n'era poi tanto bisogno, perché a quando a riempire quella era profondissima, ma grande veramente. Caspita, gli ho fatto, sa vedere che ho riempito la vasca di schiuma. E sicuramente sarà stato così, e che ne so io. Boh, so solo che questa schiuma la faceva addirittura a zampillo per almeno 20 centimetri dal livello del lavandino usciva fuori. Gli ho fatto io questa cosa su stessi, no? E cosa ne potevo sapere che si faceva in un altro modo? Purtroppo ho fatto così, pazienza, ecco, è andata lo stesso, là. Che magari era anche di quello concentrato, detersivo, se ne metti troppo ti fa la schiuma, te ne esce anche fuori. Solo, ma non è che sei vasca biologica, è questione che se tu metti troppo detersivo, poi fa così, con l'acqua diventa la schiuma e ne va la buia alla bandina se ti fidi, ti scritto a casa. E vabbè, gli uomini molti non sanno fare queste cose, quindi sono anche, diciamo, scusati. Molti uomini non le sanno fare. Io so fare tutto, so cucinare, lavare, so fare tutto. Perché già lo sai, ho vissuto anche da solo, quindi 5 anni sono stato solo. Beh certo, d'altronde è così, se uno ha imparato e le ha fatte queste cose, è chiaro che per sapere basta. Ma io che non ne ho mai fatto e non mi sono mai interessato, nonostante che sono quasi 50 anni sposato, tra l'altro 50 anni a luglio, no, a agosto, 50 anni, grazie a Dio, e per cui io non mi sono mai interessato, mai, anche perché non mi ha mai appassionato. C'è stata sempre mia moglie che ci ha pensato a queste cose, per le faccende domestiche, eccetera. Io sono pensato a lavorare, e fare legnameria e a portare soldi a casa, però per il resto, non mi dica, perché intanto non le so fare, no? E non ne volevo nemmeno fare, la verità è anche quella, per cui cosa vuoi che ti dica? Pazienza, comunque, guarda se un giorno imparo, ma non credo però, non credo di avere necessità. Avanti di già. Ma sai cos'è? Tu sei come mio padre, si sapeva friggere un uovo, perché le donne di altri tempi non pretendevano queste cose, invece adesso se tu vi certe donne ti dicono cucina, lava i piatti, dammi una mano, capito? Le pretendono proprio le cose, capito? Ma a me mi parte da solo, e parte da solo, se devo lavare i piatti lavo i piatti, se devo cucinare cucino, non c'ho problemi. Infatti adesso mi sto andando, metto un il sugo è già pronto, il ragù è pronto, quindi è già un po' avviato il pranzo, va. Eccomi, sono rientrato. Mi ha mangiato, va. Riga. Cattara. Una saetta ho fatto al tuo. Buoni erano. Il sugo l'ho preparato io, Maramera, e cos'hai fatto, Gigione? No, sugo al tonno. Giulio, però stai sbagliando, sai, perché... spero, cioè, se tua moglie poi un giorno non se la sente, non sta bene, è meglio che impari a fare qualcosa, perché ci pensare tu me. Al limite, se prima di tutto poi c'è mia figlia, o primo, e poi già ci sono i rimedi, o altro, non è quello il discorso, e figurati, se per un giorno per dire... ad esempio mia moglie non può cucinare, già ci sono i rimedi, ci sono i ristoranti, già non morivo di fame, questo è scontato. E cosa vuoi fare? Io non ne ho mai avuto passione per la cucina, per cui non ho mai imparato a fare niente. Mentre invece devo dire senza nessuna presunzione che sono bravo ad esempio a fare la spesa. Perché? Perché l'ho sempre fatta. Io essendo a Sassari come attività, io dico Sassari per dire perché anche le punti a Sassari no, però c'è un certo distaccamento, allora cosa facevo? Facevo la spesa io per tutta la settimana nel negozio di via Pascoli, perché era lì a 150 metri da dove lavoravo io, e dunque mi veniva bene, soprattutto per il fatto che portavo sempre le confezioni dell'acqua, prima quando c'erano le cassette con le bottiglie di vetro avevo quelle, e poi successivamente invece le confezioni sono adesso tutte in plastica e dunque niente più cassette di vetro, e per anni e anni ho fatto la spesa, ma si può dire sino all'altro giorno, tanto per dire, no? Per cui in quanto a quello già sono capace, non c'è bisogno che nemmeno che mi faccia un elenco. Sì, ve lo chiedo quando faccio la spesa io cosa devo comprare, però non ce ne sarebbe nemmeno bisogno perché intanto so come mi devo comportare, è tutto lì alto. In quanto a quello io sono bravo, anche perché è meglio farla un uomo alla spesa, perché le confezioni dell'acqua sono abbastanza pesanti, anche perché non è che ne prendi uno o due. Quando io vado faccio il carico, riempio la macchina, il portabagagli, riempio, e così vale anche per il fatto del pellet e tutte queste cose qua. Sono cose un pochino pesanti per una donna. E allora ci do dentro io queste cose. Vai Gianni. E allora, stavo aspettando, mi rilanciassi in macchina per dirti che sto chiudendo. Vi saluto tutti cordialmente, vi auguro buon pranzo quando l'ho fatto, Antonio buona digestione, io sto andando a mangiare, dai. Ci sentiamo, buona serata. Ok, ciao Gianni, grazie anche a te per la chiacchierata e farti sentire, anzi non fare in modo che ti dobbiamo desiderare per risentirti, fatti presentire tu, di tua iniziativa, sei utile. Lo so che sei impegnato, però diciamo se ti dedichi una mezz'oretta anche al baracchino, già lo sai che è un piacere per noi e per la frequenza, per tenerla soprattutto viva. Bene, bene, ciao Gian, di nuovo, buon pranzo. A mangiare tu. Capa, salutoni, ma sto sentendo il telefono, salutoni, volevo dire in fretta, oh già, ci sentiamo alle prossimine. Ah, ti volevo dire una cosa, ma non è conosce a mia cognata, no, che lavorava lì nella Sigma di via Pascoli, nella Tisa, a Maria Cristina, a Cristina, dai. Maria Cristina, sì, ma diciamo che le donne che c'erano lì le conoscevo tutte, le conosco praticamente tutte, poi lo so chi è tua cognata, però nel corso degli anni ho fatto sempre la spesa lì per anni e anni e anni, sicché anche a giro, anche quando cambiavano, le ho conosciute tutte quante. Maria Cristina, Maria Cristina, Maria Cristina. Ma non sarà per caso la nipote di Gianni Paolesolo, o quello che canta il Sassarese? No. Pilas. Non lo so. Le ho conosciute tutte, ripeto, ma non so che possa essere. Vabbè, sì, scendo subito. E stavo dicendo, mi hanno chiamato a scendere giù, vediamo cosa voglio. Ma buonanotte, dai, ci sentiamo stasera, ti devo lasciare, che mi hanno chiamato. Alle prossime, ciao Antonio, buon appetito, se ancora stai mangiando, e soprattutto buona digestione. A stasera, ciao ciao, ascolto il finale e poi chiudo. Ok Giulio, ce la risentiamo alle prossime, non è che ti sto mandando una cosa giù. Vabbè, riconosci te due, moglie e marito lavorano lì. Ti sto mandando una foto. Guarda che mi dice, sì, me lo ricordo. D'accordo, manda pure, già la guarderò senz'altro, già ce l'ho vicino il telefono. Va bene, di nuovo ti saluto a tu, dai. Alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao. Hola? È arrivato qualcuno? Ci sono io! Chi è? Filippi! Chi sei, Luca? Ah, sto scherzando, Antonio so. Ah, c'è anche di più basso, mi sembra Antonio, ma è troppo basso, hai abbassato qualcosa. Rugoso, la vestitrice sta giusciudata. Arriva, fa la pernacchia, dopo che chiudi fa prrr. A me la pernacchia? No, dopo che chiude il bip fa prrr. Ma cosa fa la bronfera? No, adesso non l'ha fatto, perché come la faccio dal bip e poi faccio la prrr. No, forse il tasto, come? Va a posto, dai. Non c'è problema. No, c'era venuta gente, mi sono allontanato un attimino, infatti ho detto riacceso e ci avessi vedere anche uno. Tutti saranno andati a mangiare, anche io troppo poco tanto. E anche quanto ti sono arrivando, poca roba, no? Non ho capito tu. Quanto ti sono arrivando? Quasi 9.20, 9.15 abbondante, dai. Ho poca potenza. Sì, va bene, dai. Gaffa gaffa. Ha detto che la friggitrice è sudata. Quanto ne dà la friggitrice? Un po', dai. Più di 100 o di meno? Un po' di più. Vabbè, tanto stiamo parlando in generale, non è che stiamo dicendo uno, se ce l'ha non è detto che la deve usare. Scappa, letargo, Sì, già arrivi bene così, è fortissimo anche adesso il segnale. Sei più basso di prima, ma la radio è sempre uguale, non cambia niente. I problemi ce li avevi quando eri nell'altra casa, di lì cazzo era un po' difficoltoso, perché il segnale era 9, però la radio non era bella pulita come questa. E la radio è uguale, non eravate sui radio. No, questa non ce l'avevo nell'altra casa. Ma tu cosa c'avevi? Un Ranger? Che cos'era quella radio che avevi? Un Go, 550 Power Lintec. Ma c'avevi anche un'altra radio però? Sì, avevo anche un'altra, sì. Cos'era? L'S9, il Magnum, cosa avevi? Non ce l'ho mai avuto l'S9, magari. Allora è Ranger, io mi ricordo che avevi una radio particolare. Mio padre era. Ti stai sbagliando con qualcosa, ti stai sbagliando con il Superstar. Superstar, cos'era? 3009, 4009? Qualcosa del genere. Sì, la griglia fra poco è pronta. Ma tuo babbo la stazione ce l'ha ancora o ha smontato tutto? Gli è rimasto Jackie Penny, gli è rimasto. Qualche radio così. E l'antenna ce l'ha ancora? Ma ce la dovrebbe avere. Com'è? E adesso sei salito quasi 9 più 30. C'è di buono però che non ti mangia la radio, questo apparecchio che hai aggiunto. Già un grido, via. La mappa che te ne varia. Ma transistor o valvole? No, transistor. Diciamo, per certe potenze va bene anche il transistor, se riesci a regolarlo bene e farlo. Però oltre a certe potenze ci vuole la valvola, perché il transistor non ce la fa più a lavorare. Cappa. Non so già. Oh yes! Eia, no, la radio è bella, pulita. Che cos'è il microfono questo? Un MP4! Sta bomba, sta andando benissimo. Ok, vediamo se nella frattempo c'è qualcuno, qualche minuto anch'io rimango, poi stacco. Stasera proprio dei baracchini vecchi che c'avevo, li metto in funzione, voglio togliermi il dubbio, dai. C'ho il vecchio pace e altri baracchini che voglio provare. Se da voi vorrei, comunque c'è apparecchio, un casino. Cos'è tanto? Mi non bisticciare mi con quell'apparecchio lì. Bisticciare? Ma è tuo pace. Così no, già tranquillo. Scusate, Manto, che devo rispondere. Ehi, vai, vai, tranquillo. Avanti! La radio è un po' così. Il segnale 910, radio 5. Bene, ti arrivo a quelle parti, Giovanni. Già va bene. Che radio stai usando? Questo qua. Ehi. Così scendi. Ah, va bene, va bene. C'è quello che mi testa, va. Va bene, va, ciao, chiudo. Sentiamo. Ehi, K, ciao Giovanni, ci sentiamo.